considero molto grave che a parere di Contini, e non solo a parere di Contini, il futuro dell'Iraq debba dipendere da altri, soprattutto se con il termine altri ci riferiamo a coloro che si sono indegnamente appropriati delle risorse naturali del paese. Tuttavia, oltre all'aspetto economico di una tra le più sporche guerre della storia, c'è naturalmente l'aspetto etico. Lascia Baghdad Paul Bremer, che è partito ieri e verrà sostituito da un uomo forse tra i più colpevoli della politica americana, non direttamente un personaggio politico, ma un affabulatore viene definito, nonché una persona che agì sotto banco nel traffico d'armi durante il governo Reagan. E George Bush, che ha preso, sembra, si è appropriato dell'agenda Reagan, la potremmo definire, ha infatti voluto affidare le leve del comando a John Dimitri Negroponte, un diplomatico la cui dote maggiore sembra essere la capacità di chiudere occhi ed orecchie anche alle realtà più devastanti. Quando era ambasciatore in Honduras, John Negroponte era vicinissimo alla giunta militare del paese, che peraltro si era insediata grazie allo stesso governo degli Stati Uniti. E proprio negli anni in cui Negroponte rappresentò il suo paese in Honduras, cioè tra il 1981 e il 1985, l'uso della tortura divenne una pratica sistematica. L'ambasciata americana sapeva perfettamente quanto avveniva nei molti luoghi deputati agli interrogatori, ma l'ambasciatore John Negroponte non trovò mai nulla da ridire, riuscendo a mantenere peraltro una calma serafica e l'aria di chi cade dalle nuvole anche davanti alle richieste di aiuto più accorate. Un'altra cosa di cui Negroponte era perfettamente al corrente era la presenza di allenatori, potremmo dire addestratori, venuti dall'Argentina e Honduras per allenare proprio i colleghi meno esperti e con il beneplacito della CIA. Non volendo poi più essere infastidito dai genitori e dalle famiglie delle centinaia di persone uccise sia in Honduras che in Nicaragua e nel Salvador, dove stesero la loro crociata anticomunista Negroponte e Reagan, Negroponte decise di mentire, rassicurando quelle famiglie che chiedevano giustizia, chiedevano notizie dei loro cari scomparsi, mettendo in scena una farsa atroce. Assicurò a queste persone disperate che i loro cari erano in salvo, ma che per il momento non potevano essere contattati perché nascosti in un luogo sicuro. Ovviamente John Negroponte sapeva benissimo che i desaparecidi erano morti da tempo e dopo lunghe sofferenze, ma considerava la questione null'altro che una noia diplomatica. Negli anni 90 venne aperta una commissione per i diritti umani relativa al recente tragico passato dell'Honduras. In quell'occasione Negroponte non poté tirarsi indietro, fu costretto a testimoniare, si limitò però a rispondere di non sapere nulla e di non aver mai saputo che in Honduras ci fossero stati dei morti. E soltanto davanti alla diretta testimonianza di alcuni dei pochissimi sopravvissuti alle torture, Negroponte ammise che se effettivamente c'erano stati dei casi di sparizione e di morte successiva, ciò andava addebitato al clima caldo dell'epoca e naturalmente, come sbagliarsi, all'incombere del comunismo, che nell'era Reagan era l'orco atroce che poteva piovere sugli Stati Uniti da un momento all'altro. Ci sarebbe da una parte da chiedersi se Negroponte sia l'uomo giusto per riavviare, ammesso che ne abbia il diritto, la democrazia in Iraq, d'altra parte ci sembra quasi scontato che l'incarico di continuare l'appropriamento assolutamente indebito e crudele anche dal punto di vista umano venga affidato ad un uomo che ha alle spalle veramente conosce nei più reconditi aspetti la tortura, l'assoggettamento di un popolo, la menzogna e tutto quello praticamente cui abbiamo assistito fino adesso. Un particolare non indifferente è che John Negroponte viene da una famiglia di origine ebraica. Dico questo senza neanche una parvenza di discriminazione nei confronti di ma c'è da chiedersi se una persona di origine ebraica non venga a fomentare, affidando le redini di un paese arabo dove la cultura è araba e credo abbia dimostrato di voler stare araba, se fosse non sia una minaccia in più, una scintilla che può esplodere da un momento all'altro. Vi saluto, Bianca Cerri per Amisnet, Reporter Associati.